Salve siciliana in natalizia. Ciao Gianfra, buonasera, ben sentito. Beh, allora, preparazione al nastro. Lo so, io ho acceso adesso, ho acceso perché non sono fatto bene oggi, la verità. E come mai Natalizia? Sei affaticato? No, no, mi è venuto un attacco come quello che mi è venuto per la pancreatite, crepando salvo stamattina, boh, chissà cosa mi ha fatto Mari. Dipende anche da quello che magari ha mangiato. Poi quando sei così bisogna stare attenti un po' a tutto, capito? Comunque dovresti fare i controlli periodicamente. E uno ne devo fare il giorno 17. Ne devo fare, devo fare un eco color Doppler. Se lo fai a Platamona. Ehi, lì devo fare la preparazione prima. Non ho detto di fare così. Ogni tanto ce n'è una nata lì, è una cosa micidiale. È micidiale, sì, stamattina proprio morto mi sono visto qua. E non sei andato al pronto soccorso a farti vedere? No, dopo mi è passato e non ho preso nulla. Proprio un attacco mi è venuto, mi capito? Cos'era, mal di pancia o dolori addominali? Un mal di pancia forte, ma forte però, un dolore allucinante. E può essere una colica allora? E infatti. Potrei fare anche magari una coloscopia per vedere se è andato all'intestino. Poi quando stanno arrivando forti questi natali? Lo so, già li sento già. Comunque ti sei ripreso, sì. Sì, poi sono fatto il giorno bene. Mi sono ripreso. Ma cosa vuoi che ti dica? Qua si sente. E chi sono? Chi? E un'ambulanza è passata veloce. Ma doveva essere scortata anche dalla polizia forse, perché l'ambulanza ha una sirena diversa. E la polizia ne ha due soli di suo, invece l'ambulanza ne ha tre. E qualche incidente. E io ho smontato poco fa. Oggi giornata un po' così. Mi sono fatto anche un po' una mini pulizia col decespugliatore. E vediamo un po' quanto dura. Certo che se c'è il tempo instabile che piove è un macello, speriamo di no. Ma sono giornate strane, non si capisce niente. Tutto un macello. Anche stamane c'è questa nuvolaglia, poi caldo, poi freddo, poi caldo. E non se ne capisce niente, Gianfra. Non se ne capisce niente di questo tempo. Poi basta un po' di umido, qua ci sono. Escono acquoni di tutti i tipi e generi, ma soprattutto grandi proprio, quelli giganti, sono anche duri, ma di tutto di più c'è. Però la casa non la fanno più come era prima. Questa propazione sale fortissima quando parlano, poi scende. S3 è il QRM. Qui ci ne stanno arrivando Santiago 9, dimmi tu. Sì, poco fa c'era di nuovo, mi è sembrata la Sicilia, ma poi ci sono i tedeschi da tutte le parti, certi segnali anche 9.15. Poi cala di colpo, poi ritorna. No, non ti ho capito, Natalia, hai detto? Che stavo parlando con la 50. Ah, sì, sì. No, io stavo facendo una cosa qua. Anch'io ero un po' distratto. Oh, io. Ti fa male la schiena, mamma. Anche io sono sempre a mal di schiena, chissà cosa sarà, boh. O il tempo. Il tempo è la vecchiaia. La vecchiaia carrogna, dico, no? Ma carrogna, amico. Gianfra. Bubu. Stiamo pagando anche lo scotto di essere rimasti bloccati per così tanto tempo. Bisogna muoversi, uscire, camminare, pedalare soprattutto. io. Anche la qua mi sono preso domenica. E camminare me l'hanno sempre detto di camminare. Oggi non sono uscito perché mi sono sentito, se no stavo sempre uscendo. A piedi. Sì, bisogna uscire, che si ferma per tutto. Bisogna sempre fare movimento, perché se ci si ferma poi si mette l'ossido, la ruggine, non va bene. E non c'è doppio di 40 che tenga, magari funzionasse, non funzionano neanche i cosi, quelli disincrostanti per togliere l'ossido. Infatti sto diventando matto, anche un telecomandi che hanno quei pulsanti piccoli, l'unica è smontarli, buttarli via e metterceli buoni. Perché sono sigillati, capito? Quindi anche se ce lo butti sopra non combini poco, perché non penetra, sono grandi un millimetro, quindi tutto micro, e quindi dopo che ci hanno qualche anno iniziano a dare colpi perché non fanno bene contatto. Sì, infatti è un macello per quello. Sono sigillati che non li puoi aprire un macello. E poi usano lo stagno che ci vuole il saldatore lì al massimo della potenza per poterlo sfuggire. Anche di lì è un problema. Tu figurati, mi è capitata una partita di connettori di quelli BNC. Sono andati a usarlo e un paio mi sono rimasti in mano. Nuovi, tolti dalla busta. Messi per le telecamere lì, l'ho attaccato, non funzionava, vado a staccarlo e mi è rimasto in mano, sta cosa buona, Sì, e se non quelli che vende più usare i PL, ci vogliono buttare, non si viene a nulla, tutti si smontano, si fanno, mamma mia, mai visto che avevo PL così. Non me ne parlare, infatti stavo aspettando il bel tempo, che non ci sia neanche vento, per togliere alcuni PL e saldare direttamente, almeno posso di fare queste cose strane con questi PL che non servono a nulla. Li saldo, vecchia maniera, hanno meno perdita e tutto. Quando deve fare qualcosa, c'è qualche problema. Forbice è buono, tassicchio. Io ne ho preso una partita che sono veramente buoni, ne ho preso credo una decina, che sono in bacchelitte, li ho pagati pochissimo, veramente poco, pensavo che fossero una schifezza, invece sono gli unici che chiudono bene, perché molti, quelli, anche quelli che ti vanno a fusare, sono, c'è una filettatura per conto suo, sono proprio divisi da Dredisi, e di quelli ce ne ho buttati un bel po', che non duravano niente, qua poi all'umido, figurati. E quando non tenesse il polo centrale, netto, non so quanti ne ho buttati di quelli di fusare. Sì, una cosa che non si crede. Ma purtroppo ho visto che non ti puoi neanche fidare a prendere quelli costosi, io ne ho due di quelli ma sono capitati due di quelli professionali, no? Quelli che sono che hanno la gomma interna, le guarnizioni, che si devono chiudere con la chiave inglese, sempre PL. Alla fine dei giochi poi vai a vedere tutto. Sono sti casinati, a volte ne esce la punta, ne esce, oh, rimane cavolo, non è roba mica, cioè qua neanche ce li hanno quelli, figurati, sono per cavi, per quelli grossi, per RG8 213, ci hanno la chiusura stagna, quindi vanno anche saputi mettere, perché c'è la gomma che poi si allarga, no? tipo termos, tipo tappo di termos, e quindi c'hanno, dovrebbero avere una bella tenuta, invece anche quello prima vendeva quelli dell'Antenor in bustina, quelli erano buoni, vedi? Adesso non ne arriva manco se ti ammazzi. Ma anche se arriva non sono sicuro che sia ampio, non ho capito, perché sono molto imitati, l'ampio ti costa dai 5 euro in su, un solo PL, che è un costo enorme comunque, per quello che c'è, il PL c'è una ghiera filettata, c'è il puntale che è in castro, non c'è niente, sto fanno pagare un pacco di soldi, poi magari se non è originale ci deve anche buttare, quindi è un macello veramente. E quelli che vendeva Fusaro erano anche marcati Amphenol? Sì, ma deve essere l'Amphenol thailandese, cinese o chissà di quale paese strano. Ma quelli che avevo comprato io erano buoni, non è uno di quelli. Uno che uno non mi ha avanzato, ma dimmi, sono tutti in campagna. Guarda, adesso vado nel mondo tutti i piedi. Sì. Ci sono, guarda, ci sono certe marche che non si conoscono, io sto guardando adesso in bacchelite, 2PL 9,20 euro, 2PL 2,59, ma poi anche quelli sono mezzo, il problema maggiore che ho visto su tanti di questi PL è quello proprio che sono filettati male, capito? Questi non riescono neanche a fare una filettatura, figurati quanto sono messi male questi fabbricanti. Infatti, quelli Fusaro ne esce, il positivo ne esce con la fare in bacchelite e tutto, ma dimmi tu, uno l'ho dovuto incollare qualcosa con l'asta. Ma proprio di quelli, io ne ho preso tutta una busta che sono in bacchelite, però sono molto molto resistenti e costano molto molto poco, perché non bisogna pensare, oramai bisogna provarli semplicemente, perché in mezzo a quelli economici c'è anche quello buono, perché alla fine non è che ci sia una grande lavorazione, è una cosa abbastanza semplice, è più complesso un BNC se vogliamo, ma proprio il PL, poi vai a cercare quelli corti, no? Quelli piccoli, per il C58 parliamo del 155, quella è un'impresa veramente. Niente, quei BNC è già un macello quando sono buoni, figurati se sono difettosi. Ma su quasi tutta la radio veicolari ci sono solo quelli, non utilizzano i PL, soprattutto su apparati UHF, sono tutti a base PL. A base BNC, così mi sa dice? Sì, volevo dire a base BNC, quelli UHF e la radio, professionali, sono tutte col BNC, quindi devi usare qualcosa di buono perché a quelle frequenze non le digerisce poi le imperfezioni, capito? Si trasformano subito in perdita e non va bene. E infatti a quelle frequenze è guai, la minima cosa che non va è un macello. Allora, sto guardando uno di PL. 12 euro costa, roba allucinante, uno solo, color gold, 12 euro, ma questi sono tutti fuori di testa. Sani non sono. Poi lo compri e ti rimane in mano magari, e ne mandi 3.000 bestemmie. Sì, una cosa micidiale. Poi ci sono gli SMA, di quelli ne ho preso un paio di buste da fuori direttamente. Quelli sembra che stiano andando bene, stranamente. Sono difficili da saldare perché sono estremamente piccoli. Però, insomma, se ci fai un po' attenzione, riesci a usarli. Sì, certo che è un macello quando sono così. Devo cercare di trovarne qualcuno buono di PL, perché a me mi servono. E quelli di Fusaro purtroppo mi rimane il positivo in mano. Se uso le RG213 mi rimane il positivo in mano. Bacchelite e tutto. Sì. No, a me dà fastidio il fatto che no. E molti hanno la filettatura che non riesce a evitarli, capito? Hanno sbagliato proprio il passo. Fai a metterli, soprattutto sui commutatori, no? Io faccio tutti i commutatori di alta qualità, fai a metterli e rimane un po' caldo, il cacchio non entra. Stai 3 ore tentando di centrare la vitatura, ma proprio non ha vita. Boh, ma dimmi tu che non si prendono neanche la briga di controllare quello che fanno. Infatti se non avvitano è un macello. Anche io ne ho uno qua di commutatore live. Quelli lì dei commutatori sono tutti fatti bene, non è che possano sbagliare, sono commutatori che ti costano oltre 100 euro l'uno, quindi hanno per forza roba di qualità, è tutta marcata, eccetera. E non ti entra il PL, ma roba la mattina, è una cosa assurda. E se non ci sono buoni a fare le filettature, hanno sbagliato il passo direttamente, se no abitava subito. È il passo sbagliato della filettatura che hanno fatto. Sì, perché sono proprio pasticcioni, capito? Sono pasticcioni. Qua ad esempio ci sono questi che sono in barchilita, sembrano buoni, 10 pezzi, 259, con riduttore, 14 euro, quindi 1,40 euro l'uno, quindi sarebbe pure buono, ma poi bisogna vedere se t'avvitano, capito? È tutto, io capisco l'Italia non la fa qualche piccola azienda, non c'è neanche bisogno di particolari apparecchiature, perché questi li fanno come macchine utensili, automatiche, eccetera. Tutta roba che portiamo dalla Cina, che ci sono quelli buoni, ma ci sono anche quelli che fanno schifo. Non capisco perché non ci mette un marchio italiano serio che si faccia queste cose, senza farlo pagare ovviamente 14 euro l'uno, perché sennò buonanotte. Boh, non c'hanno più fantasia. Come è successo per le mascherine, no? Se vedete in tutta Italia, nessuno le produceva, che è una cagata, perché una macchina, ci sono macchine che ne fanno anche un milione al giorno, perché escono così, tra l'altro sono anche macchine abbastanza piccole. Adesso che hanno capito l'antifona, sono andate a comprarle queste macchine. Meno male, le fanno anche in Italia adesso le mascherine. Cos'è per l'elettronica? Tante cose, noi fabbrichiamo solo connettori particolari, quelli militari, perché su quel campo fabbrichiamo tanta roba, però poi per l'uso quotidiano non trovi un tubo. E beh, quelli militari non si può cercare di buscarli? No, sono tutti connettori particolari, speciali, è uno standard a parte. Se trovi qualche PL, te lo vendono a peso d'oro, capito? Non è comprabile dal normale umano. Lì è tutto super costoso. Io mi volevo buscare uno di quegli apparati militari, ma non so quale prendere per non prendere fregature. Uno già c'è a Cagliari, un apparato costruito dal proprietario che era radioamatore, un mio parente che è morto, magari se lo chiedo alla moglie me lo dà. Però non è, cioè quelli militari sono fatti da un paio di case particolari, capito? Non fanno neanche apparecchi per radioamatori, figurati, sono proprio marche ad hoc adesso, nomi che la maggior parte delle persone neanche conosce, che fanno solo quello. E io capito, no, di quelli surplus, di quelli che per poter parlare qua, insomma, che facciano le HF. Sì, ma quelli che si trovano non c'hanno neanche, la M non ce l'hanno, capito? Sono tutti FM, lavorano dal 25 ai 46, comunque quelli che costano poco sono proprio adattati, sono quasi pezzi da museo. Sono buoni perché sono fatti per durare anni e anni e anni in condizioni estreme, però non sono molto recenti, perché un apparecchio moderno militare o con quegli standard lì ti costa quanto un'automobile e mezza. Beh, stavo guardando un Rotoslav, credo che andasse sui 35.000 euro, giù di lì. No, lasciamo verde. È roba particolare, capito? Anche perché poi quando passano al mercato civile lo devono modificare per togliere un po' di roba, tipo le criptature, le codifiche, insomma, è tutta roba di nicchia molto alta che pochissimi possono permettersi. Tutto lì. Pensavo fossero più accessibili. Ma io mi fornivo, cioè anche per i piedi mi fornivo sempre da una ditta che ce li aveva con gli apparati, però sono tutti di recupero. Quindi poi bisogna fare le frequenze sempre, capito? Perché non è che vadano sempre bene per noi. infatti non sono fatti per noi. Guarda, stanno vendendo i vecchi RV4 dell'esercito, ma non servono a niente, vanno dal 26 al 71, però sono in FM. Poi hanno, siccome li collegano spesso a hanno delle appendici, chiamiamole così, per l'espansione, sono tutti con potenze strane. Questo, diciamo, c'è il suo corpo che ti permette di andare con 25 watt, ma FM è capito da 26 a 71, e diventa una cosa enorme, perché ci devi attaccare tutti i suoi accessori, l'alimentatore particolare, e c'hanno tutti questi connettori speciali, capito? Che sono grandi, e così via. E non costano poco, nonostante siano stati dismessi da qualche anno. Il bello, c'hanno il microtelefono, questo costa 580 euro ad esempio, e non te ne fa niente, perché poi c'è solo FM. Infatti qua in FM non modula nessuno, e secondo me è anche meglio della M. Ma non c'è paragone, non ci sono tutti questi problemi di interferenze, di cose, e quindi è così, sto scarica, cioè molto di meno. Ce ne sono tanti, anche che costano poco, anche la seconda guerra mondiale. C'è un altro da 27 a 38, 280 euro, ma c'è ancora una scrivania molto, molto resistente, Natalia. E di quelli di carro armato magari? Infatti, sono di quella razza lì. Ma poi molti hanno potenze, ce n'è uno, 170 euro, da 20 a 28 sempre in FM, potenza 1 watt, perché loro non usano grosse potenze, sono da 1 watt, infatti 2 watt, poi se devono utilizzarli per altri scopi, hanno l'accessorio che si mette, e allora può pilotare potenze molto maggiori, però è tutta roba, ripeto, particolare, che poco si adatta alle esigenze di qua. Non te ne fai nulla. Allora ci tocca comprarci questi giapponesi. Quelli per l'uso di qua hanno un'altra tipologia, capito, di cose. Poi vuoi rimanere sempre un gradino sopra, soprattutto sempre il discorso, se tu puoi permettere, ci sono determinati apparecchi che anche per la 27 sono l'ideale, però stiamo parlando di apparecchi da 1200-1300, quindi non costano indifferente, però fanno tante cose, non sono neanche da paragonare al classico baracchino, hanno tutta un'altra impostazione, tutto un altro pianeta. Il baracchino è sempre lo stesso, ma sono tutti fatti su quello scheletro del vecchio coso lì, come si chiama, Pluto, quelli lì, no? Però è tutta robetta, no? Se la guardi anche come schema, come tutto, no? C'hanno dei filtri giocattolo, tutta roba un po' strana. A proposito, avanti ieri, anzi un'altra settimana, c'era un film di una rapina, no? In cui c'era la forestale americana che aveva un apparecchio che era un Colt piazzato in macchina su una fuoristrada. Ci ho avuto qualche dubbio che fosse realmente utilizzabile da quelli. Quelli sette figli la usano la 27, non ne ha tutti nulla. No, quelli lì sa dove l'hanno recuperato, ma non, guarda, la forestale in certi stati, la forestale americana, il ranger, oltre a utilizzare il VHF basso, no? Li sentivo una volta che erano sui 31-32 MHz, e lì ci sono anche i vigili del fuoco, dipende dalla località. Loro sono abbastanza disordinati come frequenze, capito? Sì, infatti. Usano di tutto. E qua è, adesso è un macello, non si può ascoltare più niente perché sono tutti criticati adesso. Tutto in digitale, sono passati, non si ascolta più nulla. Sì, oramai sì. Oramai sì, perché hanno prestazioni molto, ma molto superiori anche all'FM e in molti casi anche alla banda laterale. Sono più protetti, trasmettono anche dati e quelle cose lì. Quindi è un'altra cosa. È ovvio che ci abbiano apparecchi. Oramai si stanno spostando tutti lì, la radio analogica. Costa troppo da costruire ed è troppo vecchia come impostazione, capito? Sì, infatti. Cazzo, anche i vigili urbani, cazzo, sono in digitale, dimmi tu. Sì, perché sono entrati insieme al gruppo, definiamo così, dalle forze dell'ordine, no? Quindi sul circuito Tetra, che non è il Tetra che pensano molti, che fanno a comprarsi da parecchio e poi non sentono un tubo lo stesso, perché loro è il Tetra Poll, che è per sua natura fortemente criptato, ha tantissime funzioni di controlli, di cose varie, quindi sono apparecchi un po' particolari, non imbattono molto, perché il Tetra può operare solo in UADA, in bande UHF, neanche VHF, quindi figurati, e poi ha necessità di tante celle, non li chiamo neanche ripetitori, perché sono in realtà celle. Se tu passi a Sassari e guardi tanti piloni telefonici, no? Spesso vedi vicino delle antenne che sembrano delle antenne da radioamatori, no? E quelle sono antenne che operano sulle bande, credo, 390, 410, perché adesso la frequenza è quella. Se tu ascolti lì, senti dei rumoracci, da paura, e quello è il Tetra. Quindi funzionano a livello cellulare, a tipo cellulare? Sì, praticamente sono cellulari. Mentre in flash stavo leggendo che i vigili del fuoco hanno adottato l'altro, il DMR, che è lo stesso professionale, che lo utilizzano anche i radioamatori, e quello lì imbatte molto molto di più. Tu figurati che io con il portatile, col gommino, anche se sono in zona ottica praticamente, copro tra portatile e portatile, copro tutta Sassari col gommino, con le potenze autorizzate, quindi sono 3-4 watt, ed è una cosa micidiale. Figurati, e quelli sono belli, ma cazzo, se non li puoi usare è un macello, bisogna essere autorizzati per usare quelli. Ci vuole la licenza del radioamatore, oppure li devi usare quelli PMR, però in PMR devono lavorare con 500 mW, che in digitale comunque sono abbastanza efficienti. Il problema è che quelli buoni costano cari, un portatile, quelli che ho io, che normalmente uso, di una nota marca, costano intorno alle 600 euro l'uno. Il più economico fatto per il PMR, sempre dalla stessa marca, viene sui 200 euro, è una cosa piccolissima, c'ho anche quello. C'ho tutta la serie di portatili, ne ho, saranno 6-7, e sono molto costosi, reggono a tutto, li butti in acqua e non vi succede niente, però costano tanto. Sì, per avere tipo il PMR, però che ci possiamo sentire in tutto Sassari, diciamo così. Già il PMR normale non è un macello, uno lo senti, l'altro non lo senti, un macello. Ma quasi tutti soffrono di disidratamento di antenna, perché molti utilizzano antenne amatoriali, eccetera, non hanno misuratori di SVR e quindi si trovano a lavorare con un apparecchio che è mezzo sordo e mezzo andato. Perché la 446 rispetto alla fine banda che è a 438 dei radioamatori, ad esempio, sono parecchie decine di megahertz di differenza, il che significa che l'antenna non è che ce la faccia sempre. Quindi poi c'è l'obbligo dell'antenna inamovibile, essendo PMR, allora di lì si blocca tutto. E sono cose fatte apposta? No, sono regolamenti europei, perché hanno una canalizzazione molto accostata. Dare più potenza, soprattutto quando è in FM, significa avere la possibilità di disturbare parecchio se c'è un'antenna esterna. Sono per un uso personale, capito? Un uso a distanze minime, in alberghi, in palazzi, insomma, a limitata portata, lo dice anche il nome, personal mobile radio, quindi sono radio personali per distanze, per utilizzi così, abbastanza vicini. Quelli professionali contano anche su ripetitori, quindi basta un ripetitore in una zona alta e ricopre tranquillamente tutta la città e anche oltre. Già lo so, vai a piazzare un ripetitore su terra che non ci rampanea già in mare. Beh, sicuramente sì, perché per parlare di un ripetitore ci vogliono le autorizzazioni. Anche se anche quelli radioamatoriali poi bisogna gestirli, è un macello. Se uno proprio non vuole avere problemi, solo che costano un po' carucci, si può comprare i cosiddetti portatili network, che sono dei portatili che lavorano tramite internet, capito? Sono praticamente dei telefoni in parole povere. Non si riprendono per poter avere una rete noi, per poter parlare tranquillamente, mi capito, per non avere problemi. Ma guarda, Natalis, per quello scopo puoi anche andare al Polo Nord, farti da casa in mezzo al ghiaccio, ammesso che ce ne stia rimanendo, ma il rompiscatole lo troverai anche lì. Puoi fare anche un viaggetto su Marte, ma se vai da solo su Marte atterri, sicuramente anche di lì ci sarà il rompipalle che ti mette la portante o roba del genere. Purtroppo è così. Sì, già lo so. Trovare un metodo bisogna trovare. Cioè, che sia difficile da poter entrare. buonasera, chiacchierone. Buonasera, avanti. E io dai, ciao. Carino, ciao. Gianfranco. Ha iniziato bene, è finito peggio. Tutto ecco. Bello. Togli quelle careca, Gianni, buonasera. Così va bene, no, non lo tolgo, perché questo è la sua prerogativa, ve l'elenco. È per riconoscerlo. Ah, ti conosciamo lo stesso, anche senza le careca, mi piace di più. Senza le careca, capito? Anche io ce l'ho l'eco e non ne metto mai. Ah, e se mi dici così mi sciolgo tutto. A me non ci credi, guarda. Allora, ecco. Mo c'è l'eco, lo vedi? Ma io lo facciamo impazzire a Gianfranco. Guarda, io c'ho, lo sai, ben altre possibilità. Guarda, adesso cambio, ma rimango qua, ma cambio trasmissione. Senti, cambia. Non si sente niente, Gianfranco. Hai sentito qualcosa? No. Quella in digitale. Quindi, però è chiara, chiarissima, non è come qua. Mi devi dire che cos'è quello. Ma quel tipo di trasmissione? È quello che stavamo parlando prima, una trasmissione in digitale. Che è chiarissima, proprio a livelli di in presenza, si può dire, dai. Ma se non si sente niente, è bella, a me mi piace. Così me la uso io. No, il bello è che difficilmente uno può entrare, perché ha degli accessi particolari. Quindi, sì, oggi c'è più calma ovunque, c'è una preparazione. Poco fa c'erano anche russi, mi è sembrato anche qualche arabo, cosa un po' strana. Evidentemente c'è la preparazione verso sud. Avanti Gianni, allora cosa ci racconti? Allora ti sei divertito facendo DX? No, no, io non ne faccio, non mi attira per niente. Se proprio voglio parlare con fuori, già lo sai, me ne vado sotto, anche sopra, anche qua, sui 29 passa, ci sono ripetitori e senti di tutto di più. Ce ne sono, ne arrivano 3 o 4 credo. Vabbè. E cosa vi racconto di bello? Che sto sempre lottando con questo piede, ce l'ho sempre gonfio, mi si è abbassato un po', però basta che faccio uno sforzo, una cosa, mi si rigonfia. E in questo periodo sto guidando molto, quindi per quello che ne sto un po' soffrendo di più, dai. Ma già passerà. Speriamo. Cata, oggi mi sono sentito male, morto mi sono visto già. Io l'altro giorno in farmacia, c'avevo la mascherina, cosa? Mi è venuto questo cappuccino, stavo per svenire, l'ho detto alla farmacista, sto per svenire, mi sento male. Aspetti che riporto una sedia. No, vado fuori, sono come sono uscito fuori, ho preso aria, sicuramente la mascherina che mi stava impedendo di respirare bene. Ma tanta gente che si sta sentendo male, no, non è una cosa singola, perché è questo clima che varia talmente velocemente che non facciamo in tempo ad abituarci. Poi quando ti senti male per la mascherina vuol dire che a monte c'è anche qualcosa di altro, perché vuol dire che a prescindere anche senza mascherina la respirazione non è così così bella. Figurati se ti trovavi in quelle città tipo Roma e Milano, dove per noi sardi, quando ci andiamo, non so se ti è capitato, ci sentiamo oppressi col respiro corto, anche se si è allenato, proprio perché non c'è quell'aria che noi siamo abituati ad avere, ecco. Ma io a Roma sono andato parecchie volte, ma questo tipo non me l'ha fatto. Magari sono andato anche d'estate, sono andato in agosto, sono stato 15 giorni in agosto a Roma, eppure dormivo sempre col climatizzatore acceso, perché è una cappa, a Roma è una cappa, quando c'è caldo non vi ne è così, prova a Milano peggio che mai, più cappa di quella, ma se respira male, noi lo sentiamo subito.